Finalmente è qui l'estate, chiudono le scuole e fuori dai cancelli passerine e fumaiole. Tra un bacio e un gavettone, ma quanta bella figa, già mi punta dritto una. Balla zio che c'hai una siga, ed io con l'aria un po' da fesso. Beh, sai, veramente ho smesso, lei già fa un cenno con le dita. Ti ho mica chiesto la storia della tua vita, me ne sto giusto per andare, un'altra mi chiede un documento. Sai, per il distributore di sigla, te lo riporto fra un momento. Sì, sì, sigla. Passerine, passerine, fumaiole, non sentite più il profumo delle viole. Se all'aria della mattina preferite nicotina, senza fare colazione. Questo qui che cazzo vuole? Passerine, fumaiole, forse non siete il mio genere, anche con due occhi da venere, labbra glossi, glossi, tenere, ma la bocca è un posa cenere, sa di treno pendolare. Senti un po' la vacca dare, anche se di colluttorio ne bevete damigiane. Uè, state calme, eh? Passerine fumaiole, non è una canzone offensiva, non siate sulla difensiva, è una canzone preventiva d'amore. Passerine fumaiole, vi ritrovo sugli scogli con la scia che in alto sale a sfiatare come capodogli. Passerine fumaiole, non cedete al richiamo della siga, la siga non ti fa più figa. Poi allora io gli ho detto no, cioè senti bene.